caos sui mercati energetici non è generato soltanto dall'invasione russa dell'Ucraina, è un fattore che precede il 2022 e anzi avrebbe ritrovato nella crisi pandemica e nelle implicazioni che sono state successive alla crisi generata dal Covid-19. Una volta terminata, diciamo, la fase più acuta della crisi pandemica, le economie in tutto il mondo sono cresciute enormemente per investimenti che i governi hanno voluto fare, dalla Cina all'Europa, agli Stati Uniti, per riaccelerare, far ripartire i consumi. Questa crisi ha generato una scarsità energetica e su questa scarsità energetica si è costruito il piano e la strategia russa per sfruttare una fase molto particolare che probabilmente sarà difficile che riaccada per invadere l'Ucraina e sfruttare anche la difficoltà energetica in cui l'Europa si trovava in quell'istante, ovviamente accentuandola grazie ad alcune furbizie che il Cremlino è sempre in grado di mettere in campo. E ci troviamo 3 anni dopo l'invasione russa dell'Ucraina di nuovo in una situazione non di crisi per come l'abbiamo intesa nel 2022, ovvero di prezzi folli e assolutamente fuori controllo. Ricordiamoci che molti comparti industriali nei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre del 2022 fermarono le produzioni perché erano insostenibili i prezzi per soltanto pochi giorni. Ecco, non siamo in quella situazione e non arriveremo nella stessa situazione nel 2025, ma diciamo certo, andremo incontro a una fase in cui i prezzi saranno molto più instabili, proprio una spinta dal basso verso l'alto molto più sostanziale, proprio perché lo stop dei flussi di gas russo attraverso l'Ucraina costruiva una base economica, sociale e politica per molti paesi, molte economie europee, su cui costruire poi una politica industriale, energetica e anche una politica estera. E tutto questo è crollato con l'invasione russa dell'Ucraina. E un ulteriore scossone è arrivato con la fine del transito del gas russo attraverso l'Ucraina, una vera e propria tradizione, una delle poche tradizioni energetiche europee che sono sopravvissute anche al crollo dell'Unione Sovietica, perché erano 5 decenni che il gas russo attraversava l'Ucraina e dal 1 gennaio del 2025 ci troviamo in uno scenario che l'Europa non ha mai vissuto, almeno negli ultimi 50 anni. La Commissione Europea ha provato a rassicurare, forse anche i mercati, dicendo che ha 4 alternative che sono state preparate al transito attraverso l'Ucraina, però insomma non sembrano convincere queste dichiarazioni. Non convincono innanzitutto i mercati, perché il prezzo del gas naturale nei mercati europei è sceso negli ultimi 2 giorni e questo è un segnale indicativo di fiducia dei mercati nei confronti del fatto che l'Europa ce la possa fare in questo istante, ma è una visione di breve periodo, perché comunque i prezzi rimangono molto più alti della media del decennio scorso. Paghiamo il gas circa 2 volte e mezzo rispetto a quello che pagavamo nella media dal 2010 al 2019, che non è un decennio in cui le crisi politiche e geopolitiche internazionali non ci sono state, quindi il gas lo continuiamo a pagare di più e i prezzi sono in realtà cresciuti dall'ottobre del 2023 e poi ripartendo dal 2024 non sono mai scesi, e ci troviamo davanti a una situazione in cui l'Europa dice appunto non c'è da preoccuparsi, ma il gas continua a costare di più. E ricordiamoci sempre che il prezzo del gas naturale in Europa incide moltissimo sul prezzo dell'elettricità, non solo in Italia, che è un paese che è molto dipendente dal gas naturale, ma in generale i mercati affinano il prezzo dell'elettricità e lo collegano direttamente al prezzo della risorsa più costosa per generare elettricità, che è appunto il gas naturale nel mix energetico europeo. Questa situazione di estrema vulnerabilità potrà essere superata dalla transizione energetica promessa, qualora si riesca a realizzare? Ma parliamo di 2 crisi che hanno tempistiche e svolgimenti completamente diversi, nel senso che la transizione energetica è un processo a venire che durerà decenni e non è detto che sia un processo che deve svolgersi a senso unico, nel senso che potremmo arrivare a un punto in cui la transizione si fermerà o addirittura rischia, con diverse dinamiche politiche che si sono innescate in Europa ma anche nel mondo, di decelerare o addirittura di tornare sui propri passi in alcune economie importanti. E quindi le crisi viaggiano su tempi diversi, ma influiscono l'una sull'altra, ovvero la crisi energetica degli approvvigionamenti di gas naturale implica un sovvertimento delle priorità in Europa. Non abbiamo più la priorità della decarbonizzazione, abbiamo la priorità di assicurare risorse energetiche, approvvigionamenti alla popolazione, alle industrie, e di farlo con costi più contenuti possibili. Questa priorità, diciamo, mette da parte quello che è stato il Green Deal e tutte le parole chiave che hanno guidato perlomeno la prima Commissione europea, le politiche energetiche, le politiche economiche, quelle industriali, e quindi l'Europa e la Commissione in particolare si trovano davanti a uno scenario molto diverso rispetto a quello del 2019-2020, quando la Commissione von der Leyen ha iniziato, diciamo, il proprio mandato, e con un'alleanza politica così frammentata che supporta questa commissione, beh, se ne vedranno probabilmente delle belle o più probabilmente delle brutte nel 2025 per quanto riguarda la transizione energetica, perché portare avanti una decarbonizzazione in questo scenario così instabile, così pericoloso, sia dal punto di vista politico, geopolitico che economico, beh, è davvero difficile ed è davvero costoso.